La vecchia padrona e le due serve, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Una vecchia stizzosa come un cane, al suo servizio mantenea due schiave, tanto leste al filare e tanto brave, che avrian rubato anche alle parche il pane. La vecchia avara, la giornata intera, le facea filar, sempre filare, sempre col fuso in man dall'alba a sera, anche il tempo credio del desinare. Quando sull'alba in punto il suo galletto salutava il gran febo luminoso, la vecchia sgambettava fuori dal letto in un giubbone lacero e tignoso. Accendeva una lampada e senza indugio si drizzava verso lo stambugio, dove in braccio del sonno abbandonate dormivan le due donne disgraziate. L'una si stira e ricomincia i guai, l'altra, schiudendo un occhio, il consueto auguro manda a quel gallo indiscreto che canta sempre e che non crepa mai. Per mantenere forse la parola, un bel giorno il galletto si trovò nel sangue con un ferro nella gola, ma l'assassinio il male peggiorò, che per timor che passi troppo l'ora, come se fosse da un folletto invasa, la vecchia, molto prima dell'aurora, si sente tramestare per la casa. Così le donne, per amor di pace, dalla padella cadder nella brace. Fine della favola, la vecchia padrona e le due serve. Questa registrazione è di dominio pubblico.